Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vogliamo sapere da Maria Elena Boschi i dettagli di quell'incontro e, se dovesse essere vera questa notizia, come probabilmente è, chiederemo le dimissioni di Maria Elena Boschi. Deve andare a casa, non può restare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come sottosegretario, e se non lo farà presenteremo una mozione di sfiducia. Come avete sentito, care ascoltatrici e cari ascoltatori, c'è un nuovo tema di scontro, un nuovo caso, un nuovo tema di scontro politico che emerge da una rivelazione nell'ultimo libro dell'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che scrive in questo ultimo libro, Poteri Forti, che la ministra Boschi aveva chiesto, per il salvataggio di Banca Etruria, aveva chiesto all'ex amministratore delegato della banca di Unicredit, Ghizzoni, aveva chiesto di comprare, appunto, di acquistare Banca Etruria. Poi lui ci aveva pensato, insomma, c'erano state delle pressioni secondo De Bortoli, e poi lui invece aveva ritirato, insomma, aveva declinato questo invito. Adesso quindi il Movimento 5 Stelle attacca, avete sentito Luigi Di Maio ferocemente, la Boschi dice si deve dimettere, dal PD naturalmente, o almeno coloro che si sono espressi l'hanno strenuamente difesa, e lei smentisce dicendo anzi che adirà alle vie legali. Quindi ieri c'erano così delle prove di confronto sulla legge elettorale da parte di PD e Movimento 5 Stelle, delle inconsuete aperture. Oggi c'è questo tema, oltre a un altro che è anche quello dell'emergenza rifiuti a Roma, con Renzi che ha già annunciato che andrà insieme ad altri volontari del PD con le pettorine gialle a pulire la città. Ci sono poi naturalmente molti altri temi, ci occuperemo di nuovo del rogo di Pomezia, perché sembra che effettivamente in questa nube che si è sprigionata da questa azienda di materiali di riciclo ci siano anche, c'è anche della polvere d'amianto e forse della diossina, ma ne parleremo con il direttore dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Lazio. Poi molti altri temi, tra cui anche un racconto delle giornate milanesi di Obama. C'è la partita in corso, Juventus-Monaco, per la Champions League, insomma tante cose da seguire, quindi voi seguite Effetto Notte, per ora 0-0 mi dicono la partita, seguite Effetto Notte fino alle 22 come sempre tutti i giorni dal lunedì al venerdì per non perdere le notizie più importanti. Per interagire con Effetto Notte, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666. Via con i titoli. Banca Etruria, De Bortoli nel suo libro scrive: Boschi chiese a Unicredit di comprare la banca, lei smentisce, annuncia ricorso alle vie legali, il Movimento 5 Stelle ne chiede le dimissioni. Roma e rifiuti e scontro tra Renzi e Grillo, domenica puliamo noi, il Movimento 5 Stelle dice pensi a Mafia Capitale. L'incendio di Pomezia, vietati gli alimenti dalla zona, la procura di Velletri conferma, sul tetto del capannone c'era amianto. Barack Obama a Milano, standing ovation per l'ex presidente americano, agire sui cambiamenti climatici per il diritto al cibo è il suo messaggio. Francia, Macron lavora alla squadra mentre scatta la fuga di diversi esponenti politici dal Partito Socialista e Marion Le Pen si ritira dalla politica. Corea del Sud, Moon è il nuovo presidente, ora Seul spera nel dialogo con la Corea del Nord. Calcio per la Champions League, in campo Juventus-Monaco dopo il 2-0 dell'andata. Partiamo quindi dal caso che riguarda la ministra Boschi. Come avete sentito all'inizio, nel suo ultimo libro Poteri Forti, l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, parla di una richiesta della ministra all'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni di acquistare Banca Etruria per il salvataggio della banca stessa. Grillo e Di Maio attaccano e chiedono le dimissioni della ministra, lei smentisce, dice non ho mai avanzato una richiesta di questo genere, lo scrive su Facebook, aggiungendo di aver affidato la pratica ai legali per tutelare, dice, il mio nome e il mio onore. Ne torneremo a parlare tra poco. E poi la situazione dei rifiuti a Roma, che diventa un altro tema di scontro politico. La guerra dei rifiuti diventa il nuovo terreno di scontro tra PD e Movimento 5 Stelle. La provocazione parte dal segretario Dem Matteo Renzi, che attacca il 14 maggio. Le magliette gialle sbarcheranno a Roma con la città invasa dai rifiuti e nell'incapacità dell'amministrazione comunale di dare risposte. Il PD romano presenterà le proprie idee sull'emergenza, dopo che per una mattinata saremo stati a pulire la città. Immediata la replica di Beppe Grillo. Il PD ha gestito Roma per anni con Mafia Capitale. la sindaca Virginia Raggi risponde: Renzi farebbe meglio a trasferire rifiuti al Palazzo della Regione. Così l'assessore all'ambiente del comune Pinuccia Montanari su Facebook. Non c'è assolutamente emergenza rifiuti. Quello che suggerisce Renzi è solo uno spot elettorale. Dicano Renzi, il governo, la regione dove vogliono fare la discarica e l'inceneritore. Arriva poi la controreplica di Matteo Orfini. Invece di polemizzare, dal PD chiediamo alla sindaca Raggi e all'assessora Montanari di segnalarci i luoghi che si ha difficoltà a pulire. Saremo contenti di aiutare. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo vicino a Roma, sud di Roma, con il rogo di Pomezia. Il Campidoglio ha vietato il cibo proveniente da quell'area nelle mense capitoline. È stata rilevata la presenza di amianto. C'è l'amianto nel tetto dell'impianto EcoX di Pomezia. La conferma arriva dalla procura di Velletri, che ha aperto un'inchiesta sul rogo del deposito scoppiato venerdì scorso e spento completamente questa mattina. L'azienda sanitaria locale, dice il procuratore Francesco Prete, ha rilevato la presenza di amianto sui campioni analizzati. Sono prime parziali verifiche, ora bisognerà aspettare venerdì per avere un quadro più preciso. ASL e ARPA, l'azienda regionale per la protezione ambientale, continuano infatti a monitorare suolo e aria per appurare presenza e livelli di amianto, diossina e idrocarburi. La procura di Velletri indaga al momento per incendio colposo, ma il sindaco pentastellato di Pomezia, Fabio Fucci, invita a far luce su eventuali legami con la criminalità. E la Coldiretti chiede di aprire un tavolo regionale per quantificare i danni subiti dal sistema agricolo di Pomezia e Ardea e per definire anche le modalità di liquidazione degli indennizi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel corso di Effetto Notte, come vi dicevo, ci collegheremo con il direttore generale di ARPA Lazio per capire quali sono effettivamente i rischi per la popolazione, per il territorio e anche a proposito degli alimenti, degli ortaggi. Adesso però parliamo di Barack Obama a Milano, che è stato accolto con una standing ovation come una star. Ha parlato al Seed and Food di Sfide Globali, che è l'evento internazionale di innovazione del cibo. Ha parlato di sfide globali, ha fatto un discorso anti-Trump. L'ex presidente americano ha difeso l'accordo sul clima di Parigi, relativo al clima, e ha lanciato una proposta di collaborazione a Matteo Renzi su un progetto che riguarda il futuro, di cui parleremo più tardi. Il clima resta un tema caldo delle reazioni internazionali. Anche il presidente cinese Xi Jinping ha telefonato a Macron e, dopo essersi complimentato per la sua vittoria alle urne in Francia, gli ha detto che confermerà l'accordo sul clima di Parigi. In Francia, post voto, a dominare l'addio di valsa ai socialisti. La campagna per le elezioni legislative in Francia si apre con l'implosione, attesa ma non per questo meno fragorosa, del Partito Socialista, finito ai minimi termini nelle presidenziali. Moi je serai candidat de la majorité présidentielle. L'ex premier Manuel Valls, che aveva già rotto con la linea ufficiale appoggiando la candidatura di Emmanuel Macron, annuncia in un'intervista che si presenterà alle parlamentari di giugno nelle liste della République en Marche, la formazione presidenziale. Per aggiungere sale sulle ferite di un partito a pezzi, Valls ha definito il Partito Socialista uno schieramento morto. Dal movimento di Macron si sono subito affrettati a precisare che la candidatura di Valls nelle loro liste non è affatto automatica, anche perché si stanno ancora vagliando migliaia di profili. Obiettivo è avere almeno metà di candidature dalla società civile. A peggiorare le cose, la rivelazione di un ex consigliere di Hollande, secondo cui il presidente uscente avrebbe votato Macron anche al primo turno, boicottando il candidato del suo partito, Hamon. I socialisti provano a uscire dall'impasse approvando una piattaforma programmatica che abolisce alcune delle proposte più estreme di Hamon. Mentre la destra dei Repubblicani dibatte se fare ostruzione o collaborare con un nuovo presidente in caso di maggioranza parlamentare. Infine il Front National, dove si avvicina il ritiro dalla politica di Marion Maréchal Le Pen, in rotta di collisione con il rinnovamento annunciato dalla zia Marine. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quindi a chi si allarmava per il titolo appunto di Marion Le Pen che lascia la politica, si tratta della nipote di Marine Le Pen, che anche lei, sapete, aveva seguito la zia in questa avventura politica, ma poi ha detto: so che sacrifici richiede la politica e quindi voglio cambiare vita. Ancora all'estero restiamo con la Corea del Sud. Moon Jae-in, candidato del Partito Democratico, è il nuovo presidente della Corea del Sud, avendo raccolto 11 milioni e mezzo di voti, pari al 40,2% del totale. Lo ha annunciato la Commissione Elettorale Centrale a spoglio concluso degli oltre 32 milioni di voti espressi. Moon ha staccato il rivale conservatore che si è fermato al 25,2%. La proclamazione ufficiale avverrà domani mattina e ora Seul spera in un possibile dialogo con la Corea del Nord. Stati Uniti, dove il Dipartimento della Sicurezza Domestica starebbe pensando di estendere il bando di PC e tablet in volo sugli aerei anche i collegamenti in partenza dagli scali europei. Da domani intanto e fino al 30 maggio scatta la sospensione di Schengen per il vertice del G7 in programma a Bari dall'11 al 13 maggio. Schengen è l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Sarà a Bari dall'11 al 13 maggio, il G7 è a Taormina dal 26 al 27 maggio. Bisognerà andare prima in aeroporto in vista dei ripristinati controlli, quindi alle frontiere. Migranti, in 991 sono arrivati oggi a Salerno, anche un bimbo morto di 3 anni. Sono 245 le persone morte o disperse nel fine settimana nei 2 naufragi avvenuti nel Mediterraneo centrale. Oggi a Roma intanto c'è stata la nuova audizione del procuratore di Catania, Zuccaro. La massa di denaro che gira intorno all'accoglienza è davvero troppo ampia per non attirare gli appetiti delle organizzazioni mafiose. Doppia audizione per il procuratore di Catania Zuccaro, che rilancia le accuse di infiltrazioni mafiose nella gestione dell'accoglienza. Lo dico, precisa il magistrato, perché supportato da atti investigativi della mia procura, ma al centro dell'audizione anche il tema del presunto rapporto tra trafficanti e ONG dopo le sue dichiarazioni che tante polemiche avevano sollevato. Questa ribadisce solo un'ipotesi di lavoro. Mai ho detto che avevo un solo elemento probatorio in questo senso. Il nostro obiettivo non sono le ONG ma i trafficanti, ribadisce più volte Zuccaro, ma per colpirli occorrono anche più uomini di polizia giudiziaria a bordo delle navi dell'ONG, e porta come esempio l'episodio accaduto sabato, quando a Catania è arrivato un barcone con 500 migranti e il cadavere di un giovane ucciso a freddo da un trafficante perché non si era tolto il cappellino. Se a bordo delle navi dell'ONG ci fossero stati agenti della polizia giudiziaria, sarebbe stato possibile arrestare subito i colpevoli. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Occupiamoci adesso della legge contro la tortura che va verso il traguardo. Al Senato è stata trovata un'intesa, 2 gli emendamenti messi a punto. L'Italia deve essere in regola anche per farsi valere sul caso Regeni, ha detto uno dei relatori, Enrico Buemi. Sentiamolo al microfono di Raffaella Calandra. Noi abbiamo da decenni sottoscritto un accordo internazionale di attuazione di questo principio. Io sono convinto che la settimana prossima il provvedimento potrà andare in conclusione in questo ramo del Parlamento. L'Italia, che subisce il comportamento di probabilmente pubblici ufficiali di altri paesi, la vicenda Regeni, non può non avere in regola il suo codice penale. Dal G8 al caso Cucchi, una delle ragioni della difficoltà di trovare un'intesa intorno al reato di tortura. Sì, perché ci sono evidenziate preoccupazioni dell'una e dell'altra parte. Questa norma non è una norma contro le nostre forze di polizia, ma vede anche il pubblico ufficiale come un possibile destinatario di azioni giudiziarie. E poi la musica. Rolling Stones in Italia, tappa unica sotto le mura di Lucca. L'unica tappa italiana sarà infatti il 23 settembre al Lucca Summer Festival, che per l'occasione festeggia il suo ventennale. Il tour dei Rolling Stones si chiamerà Stones No Filter, comincerà il 9 settembre ad Amburgo e si concluderà il 22 ottobre a Parigi, appunto l'unica tappa italiana 23 settembre a Lucca. Mentre facciamo tappa adesso a Torino, allo stadio della Juventus, dove c'è il nostro Dario Ricci per la partita di Champions. Dario? Sì, semifinale di ritorno della Champions League, siamo al 29esimo, Roberta, qui allo Juventus Stadium di Torino. Risultato fermo sullo 0-0, risultato che lo ricordiamo qualifica al momento la Juventus alla finalissima di Cardiff. Una Juventus che è partita con qualche incertezza, Monaco che ha anche colpito un palo con Baffè, ma azione fermata per fuorigioco dall'arbitro Kuipers, e poi all'ottavo l'infortunio di Sami Khedira, centrocampista tedesco dei bianconeri, per lui infortunio muscolare al flessore destro, sostituito da Marchisio. Per paradosso questa brutta notizia ha scosso però i bianconeri, che da quel momento hanno preso il controllo del gioco e rapidamente dal 22esimo al 28esimo sono arrivate ben 4 occasioni da gol. Prima Higuain, un pallonetto davanti a Subasic, e Glick ha salvato sulla linea. Ancora Higuain per Mandzukic al 25esimo, bravo ancora una volta Subasic. Al 27esimo il cross di Dani Alves, il colpo di testa di Mandzukic al lato di pochissimo, e pochi istanti fa è stato Raggi a salvare ancora all'ultimo istante su un'incursione di Pjanic. 30esimo di gioco allo Juventus Stadium, Juventus 0 Monaco 0. Grazie Dario Ricci da Torino. Tra poco, poi nel corso della puntata, insomma, ci continueremo a collegare, soprattutto se ci sono dei gol. Adesso invece ci occuperemo di altre questioni, di altri temi. Tra poco cominceremo a approfondire con gli ospiti. 349-238-6666 è il numero se volete scrivere degli sms o dei whatsapp, 349-238-6666 sui temi di questa puntata del giorno, oppure pagina Facebook di Effetto Note alla quale potete aderire senza indugio. Intanto vedo una dichiarazione di Unicredit, ve la leggerò tra pochissimo. Intanto c'è la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti da stare insieme tutte le sere dalle 21 alle 22, accendete puntualmente alle 21 in modo da non perdere anche il riassunto della giornata, e poi stiamo insieme con me, Roberta Giordano, e voi sino alle 22 con le notizie più importanti, con alcuni argomenti da approfondire insieme agli ospiti. Tra poco andremo sulla politica italiana, naturalmente non ci fa mai annoiare, raggiungeremo tra pochi istanti la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Intanto leggo alcuni dei vostri messaggi. Per esempio dice Walter Casoboschi: se è vero è la ciliegina che arriva su una torta fatta di continui tentativi del precedente governo di parare sull'imbarazzante fallimento di Banca Etruria, dice Walter. Mentre un altro messaggio dice: lo aveva detto Grillo che gli attacchi del PD si sarebbero intensificati all'avvicinarsi delle elezioni, le possibilità di vittoria a Genova, Palermo e Regione Sicilia per il Movimento 5 Stelle ci sono. In realtà devo dire, a onor del vero, onor di cronaca, che in Sicilia le cose non è che stanno andando benissimo, ci sono delle cose un po' da chiarire. Comunque direi di partire tra pochi istanti con appunto la politica. Vi dicevo che però è arrivata una replica dell'Unicredit a proposito dell'accusa lanciata dal Libero di Ferruccio De Bortoli alla ministra Boschi, che avrebbe fatto pressione sull'ex amministratore delegato di Unicredit per acquistare Banca Etruria per il salvataggio di questa banca. Bene, non solo Boschi smentisce, dice che intende adire alle vie legali, ma Unicredit fa sapere che non ha subito pressioni politiche per l'esame di dossier bancari, compreso quello di Banca Etruria, quanto apprende l'ANSA da fonti vicine alla banca. Adesso allora vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, anche quali sono le notizie principali della giornata. Boschi, la richiesta Unicredit, ma lei smentisce, fango, dice. Intanto va all'attacco il Movimento 5 Stelle sulle indiscrezioni del Libero di Ferruccio De Bortoli, chiede le dimissioni della ministra Boschi. Pressing su Trump, il presidente americano per il clima, Obama difende l'accordo di Parigi, il presidente americano pensa, fra le altre cose, di vietare anche tablet e PC sugli aerei che arrivano dall'Unione Europea. Effetto Macron sui partiti, comincia la fuga verso En Marche da parte di alcuni esponenti del Partito Socialista, svolta di Valls, dice il Partito Socialista in Francia è morto, mi candiderò con il presidente. E poi Roma e rifiuti e scontro tra Renzi e Grillo, Renzi che dice domenica puliamo noi come volontari, il Movimento 5 Stelle dice pensi a Mafia Capitale. E poi il procuratore di Catania Zuccaro, che non molla sulla polemica relativa ai migranti, dice c'è l'interesse delle mafie, l'obiettivo dei migranti non sono le ONG ma i molti soldi messi a disposizione. E poi Obama a Milano ha avuto un'accoglienza da star con Renzi, ha detto voglio creare una rete di leader. E poi per quanto riguarda la partita ci aggiorna Dario Ricci da Torino. Dario. Il 35esimo di gioco a Torino e la Juventus a due minuti è in vantaggio, il gol di Mario Mandzukic. Dybala bravo ad allargare sulla destra per Dani Alves, il cross preciso al centro del brasiliano, al terzo assist in questa semifinale di Champions. Mandzukic di testa impegna Subasic in un grande intervento sulla respinta, però ancora l'attaccante croato è il più veloce ad anticipare tutti i difensori monegaschi e a ribadire in rete. Juventus in vantaggio per 1-0, anche se adesso è il Monaco a farsi avanti, ma la conclusione di Mbappé viene respinta dalla difesa bianconera. E finale di Cardiff davvero vicinissima, il Monaco dovrebbe a questo punto ribaltare il risultato e vincere per 3-1 per qualificarsi. 36esimo di gioco, seguiamo questa azione, palla per Higuain che segna segnalato in fuorigioco, annullato il raddoppio di Higuain, 36esimo di gioco a Torino, Juventus 1, Monaco 0, decide la rete di Mario Mandzukic. Grazie Dario Ricci, poi allora ci collegheremo ancora con Torino quando ci chiederà la linea, adesso invece colleghiamoci con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara. Buonasera. Bentornata e cominciamo appunto, dicevo, dalla politica italiana con questo complesso rapporto tra Partito Democratico, diciamo complesso, tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Sulla legge elettorale, proprio ieri si era assistito a delle inconsuete prove di dialogo tra i due, dopo che Renzi aveva nel suo discorso di investitura come risegretario del Partito Democratico aveva rimandato la palla sulla legge elettorale al capo dello Stato, a Mattarella, perché Mattarella nei giorni scorsi aveva detto basta, insomma, quei partiti, questa stagnazione, devono darsi da fare per la legge elettorale, e lui, Renzi, ha detto noi del PD non è colpa nostra, non ci stiamo a fare il capro espiatorio. Dopodiché ieri il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, il Movimento 5 Stelle, diciamo, ha lanciato una specie di ponticello verso il Partito Democratico, diciamo, dicendo vogliamo riscrivere la riforma col PD, partiamo dalla legge elettorale partorita dalla Corte Costituzionale alla Camera, cioè il Legalicum, quello che è fuoriuscito, che è emerso, diciamo, dopo la bocciatura del Porcellum, e ha detto noi non siamo rigidi. Quindi loro sono per il premio alla lista e non alla coalizione come Renzi, come il PD, che superi il 40% naturalmente. E su questa strada PD e Movimento 5 Stelle potrebbero incontrarsi, però c'era appena stata questa apertura quando sono emersi prepotentemente due motivi di scontro politico. Uno è la vicenda dei rifiuti a Roma con la giunta Raggi, che è di nuovo nel mirino dei romani per l'emergenza rifiuti, anche se l'assessora all'ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, ha cercato di calmare le polemiche e ha postato un video su Facebook che poi è stato condiviso anche dalla sindaca Raggi. Vogliamo sentire un passaggio di questo video? Non c'è assolutamente emergenza rifiuti. Roma non ha mai avuto un piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Noi in pochi mesi abbiamo approvato e stiamo attuando un piano che prevede l'obiettivo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata. Quindi la situazione attuale di criticità sarà risolta in pochi giorni, ma certamente noi abbiamo ereditato una situazione impiantistica assolutamente molto fragile, e quindi quello che suggerisce Renzi è solo uno spot elettorale. Critiche sono arrivate però alla gestione del problema spazzatura a Roma un po' da tutte le parti politiche. Renzi appunto ha annunciato che domenica parteciperà a questa giornata di volontariato del PD per ripulire Roma. Grillo gli ha risposto dal suo blog dicendo la gestione dei rifiuti di Roma l'ha avuta il PD con Mafia Capitale per anni. La sindaca Raggi ha rincarato, ha detto Renzi porti i rifiuti davanti al palazzo della regione, quindi incolpando la regione di questa situazione. La regione però a sua volta ha replicato, ha detto è la Raggi che non ha voluto Rocca Cencia, ci dica, cioè quindi questa discarica dei rifiuti, ci dica dove vuole gli impianti e noi le autorizziamo. E poi, come se non bastasse, Barbara, è emerso, diciamo, nel tardo pomeriggio questo ulteriore tema di scontro con Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, che nel suo ultimo libro Poteri Forti, di cui è stata diffusa l'anticipazione, parla di una richiesta della ministra Boschi all'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni per acquistare Banca Etruria, quindi delle pressioni, diciamo presunte pressioni per il salvataggio di Banca Etruria. La richiesta, scrive ancora De Bortoli, era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata, Ghizzoni. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere. Grillo e Di Maio partono all'attacco, chiedono le dimissioni della ministra, dicono se non si dimetterà, insistono, la costringeremo ancora una volta a venire in aula con una mozione di sfiducia. Vogliamo sentire Di Maio? Vogliamo sapere da Mariana Boschi i dettagli di quell'incontro e, se dovesse essere vera questa notizia, come probabilmente è, chiederemo le dimissioni di Maria Elena Boschi, deve andare a casa, non può restare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come sottosegretario, e se non lo farà presenteremo una mozione di sfiducia. Dopodiché c'è la controreplica del capogruppo del PD Ettore Rosato, che dice vergognoso, strumentale l'attacco del Movimento 5 Stelle alla Boschi, teso unicamente a coprire i disastri di Roma o l'inchiesta sulle firme false a Palermo. Boschi a sua volta smentisce, dice di non aver mai fatto questa richiesta all'amministratore delegato di Unicredit e dice: ho affidato la pratica ai legali per tutelare il mio nome e il mio onore. Insomma, sembrava un piccolo, diciamo, apertura barbara tra PD e Movimento 5 Stelle, ma diciamo che la rissa è scoppiata nuovamente, no? Sì, la rissa è scoppiata, ma anche quell'apertura non so poi quanto potesse essere percorribile, perché perché partiamo da un dato, cioè i numeri non consentono di fare una legge elettorale solo al PD e al Movimento 5 Stelle, in quanto avrebbero una maggioranza forte alla Camera, ma non l'avrebbero al Senato, nel senso che gli altri gruppi di maggioranza, ovvero AP, il partito di Alfano, non sosterrebbe mai una legge di questo tipo, di stampo più maggioritario rispetto a una legge invece di stampo proporzionale, come vuole Forza Italia. E quindi il PD si trova un po' di fronte a un bivio, se andare verso questo tentativo con i grillini, peraltro in una situazione come tu raccontavi bene poco fa, cioè di scontro praticamente quotidiano, oppure se invece aprire a Forza Italia, come ha suggerito oggi in due interviste il ministro Dario Franceschini, cioè chiedendo a Berlusconi di fare un atto chiaro, abbandonando gli anti-europeisti, così come ha fatto il PD, ovvero di abbandonare la Lega e Fratelli d'Italia e fare insieme una legge elettorale per dare stabilità al paese. Detto questo, poi, per quanto riguarda tutto lo scontro che c'è tra il Movimento 5 Stelle e il PD, è evidente che sono i due partiti che si giocano la vittoria nella prossima campagna elettorale. Questa sarà una lunghissima campagna elettorale, perché al di là di tutto, poi il motivo principale, a mio parere, per cui non si farà la legge elettorale in tempi rapidi è proprio per scongiurare le elezioni, perché gran parte del Parlamento di andare a casa non ha alcuna voglia. Quindi questo è il vero motivo, vogliamo dire, al di là di tutto. Diciamo che, è uno dei motivi, che è certamente uno dei principali motivi per cui non si dà a Renzi una legge elettorale che gli potrebbe consentire di staccare la spina al governo, e quindi la legge elettorale, a mio parere, si arriverà in autunno inoltrato, quando appunto la legislatura sarà pressoché alla fine e quindi andremo a votare nella prossima primavera, cioè quella del 2018. Quindi questa è la tua previsione, la tua analisi, no Barbara? Sì, perché sì. Spesso si sente probabilmente Renzi non aspetterà che si arrivi alla finanziaria, vorrà andare a elezioni prima, invece secondo te, insomma, prima della naturale... Senza una legge elettorale, il capo dello Stato ha già detto che non scioglie anticipatamente le Camere, è stato molto chiaro Mattarella su questo, è evidente che se non c'è la legge non ci sono le elezioni, punto. Cioè, una terza ipotesi al momento non si vede e quindi rimarremo così, assisteremo a una serie di tentativi. Magari alla Camera passerà un testo, ma poi vedremo che al Senato se la prenderanno comoda. Ma secondo te, per chiudere, Barbara Fiammeri, è possibile, più probabile che appunto tu dicevi di questo bivio al quale si trova il PD, no? Tra fare la legge elettorale o col Movimento 5 Stelle da una parte o dall'altra rivolgersi a Forza Italia? Fra l'altro sappiamo che anche all'interno del PD non tutti la vedono allo stesso modo, quindi diventerà complicato anche compattare il partito in una direzione o nell'altra, no? Al di là... Sì, però appunto, ripeto, poi mi sembra che il nodo principale sia quello di non mettere in mano a Renzi la pistola fumante e quindi stallo. Per quanto riguarda invece il problema, cioè degli scontri che ci sono quotidiani, quello oggi sui rifiuti a Roma, cioè fa parte di questa campagna elettorale. Certo, la capitale, come dire, è ridotta davvero male, e se poi in tempi brevi che ha annunciato l'assessora all'ambiente saranno tali, ce lo auguriamo tutti ovviamente, Il problema è che lei ha detto che entro, mi sembra, il 2020 o 2021 raggiungeremo questo 70% di differenziata porta a porta, ma nel frattempo i rifiuti dove li mettiamo? Infatti la differenziata va avanti laddove nella capitale si sta realizzando, mentre i cassonetti sono pieni di rifiuti perché chi deve trasportare i rifiuti non sa dove metterli. Una situazione un po' napoletana, direi. Con tutto il rispetto per i napoletani. Grazie Barbara Fiommeri. Ciao, ciao cara Barbara. E c'è Dario Ricci ancora dallo Juventus Stadium di Torino. Dario? Primo minuto di recupero del primo tempo di gioco della Juventus. Un minuto fa raddoppiato, c'è stato il calcio d'angolo di Pjanic dopo che Subasic aveva salvato incredibilmente su Dybala a tu per tu col portiere del Monaco. Finisce intanto il primo tempo, calcio d'angolo, Subasic ribatte ancora fuori dall'area, arriva Dani Alves, un destro al volo spettacolare, splendido, dai 25 metri, imparabile questa volta per il portiere croato del Monaco, ed è il 2-0 che fa il paio con la rete di Mario Mandzukic al 32esimo, una Juventus che aveva iniziato con qualche imbarazzo, poi per paradosso, come dicevamo, l'infortunio di Sami Khedira, uscito all'ottavo minuto per un guaio muscolare, tutto da valutare, e che ha lasciato quindi spazio a Marquis, ha scosso la squadra. Da quel punto in poi la Juventus ha confezionato occasioni in serie, prima è arrivato il vantaggio con Mandzukic, bravo a ribattere l'ennesima respinta di Subasic sul suo stesso colpo di testa, e anche in questo caso assist di Dani Alves, poi il brasiliano, come vi dicevo pochi istanti fa, si è messo in proprio, destro spettacolare, 2-0, e forse adesso possiamo dirlo, il biglietto per Cardiff è davvero staccato. Così dice Dario Ricci da Torino, grazie. Poi ulteriori aggiornamenti al prossimo gol, sarà il terzo a questo punto, così ci colleghiamo. Ma intanto, prima di lasciarci, volevo dare un'occhiata ancora ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure la pagina, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. E poi dice questo ascoltatore: io che speravo almeno in Effetto Notte di non sentir parlare di calcio, ma vedi, non si firma questo ascoltatore, con tutta la mia buona volontà, che a me interessi o non interessi il calcio, è comunque un fatto, diciamo, di primo piano che interessa moltissimi, e quindi parlando delle notizie principali non posso farne a meno, al di là di quello che interessi me. Dopodiché vi dicevo altri messaggi, per esempio sulla questione di queste presunte richieste della ministra Boschi all'ex amministratore delegato di Unicredit su Banca Etruria, riportate dal libro di De Bortoli. Simone dice: De Bortoli non poteva scriverlo mentre era direttore del Corriere della Sera, o aveva paura? A parte che penso che la vicenda fosse dopo che lui non era più direttore del Corriere. Dice: Unicredit ha già smentito, sì, ve lo leggevo poco fa che ha smentito, e comunque uno lo scrive quando evidentemente lo sa o ritiene di poterlo in qualche modo provare. Ci risentiamo tra poco. Vi presenta Sono Enrico Ruggeri, grandi storie molto commoventi questa settimana, Il Falco e Gabbiano. La breve e terribile vita di David Vetter, il bambino che ha vissuto 12 anni dentro a una bolla di plastica. Giuseppe Meazza, genio e sregolatezza, forse il più grande calciatore di sempre. E poi voliamo sulle ali di carta alla ricerca del mago di Oz, assieme a Dorothy, all'interno di un mondo incantato. Dall'inferno dell'eroina al paradiso del jazz, la storia di John Coltrane. E poi una storia che farà molto discutere, Jacqueline Sauvage. Può una donna uccidere per uscire da un inferno familiare che non merita? Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, Il Falco e Gabbiano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato, a parte il riassunto della giornata, in particolare dei contrastati rapporti tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, nonostante ieri una certa timida apertura sulla legge elettorale, quindi un piccolo ponticello che era stato lanciato tra Movimento 5 Stelle e PD, però oggi due grossi motivi di scontro: da una parte l'emergenza rifiuti a Roma con Renzi che dice vabbè, verremo noi domenica con un gruppo di volontari del PD a ripulire la città, e Grillo sul suo blog che scrive pensate piuttosto voi a come l'avete gestito i rifiuti con Mafia Capitale. Dall'altra parte poi questa rivelazione in un'anticipazione dell'ultimo libro di Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, in questo libro Poteri Forti, in cui scrive che la ministra Maria Elena Boschi, che finisce ancora una volta nella bufera per la vicenda di Banca Etruria, di cui era, il padre era vicepresidente, De Bortoli scrive che chiese nel 2015 all'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria per salvarla. Un'accusa pesante che Boschi respinge al mittente dicendo mai fatto una richiesta del genere e do mandato ai miei legali per salvaguardare il mio onore. Beppe Grillo però crede alla versione di De Bortoli e chiede le dimissioni della Boschi. Poi vi leggevo poco fa questa replica di Unicredit che dice: Unicredit non ha subito pressioni politiche per l'esame di dossier bancari, compreso quello di Banca Etruria. Questo è quanto apprende l'ANSA, un'agenzia dell'ANSA, da fonti vicine alla banca. Per il momento quindi su questo tema ci fermiamo qui, ma intanto fra poco vi ricordo quali sono le altre notizie principali, mentre do ancora un'occhiata ai vostri messaggi che potete scrivere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Anna scrive: De Bortoli è una persona seria, se la notizia risulta confermata le dimissioni della Boschi questa volta sono obbligatorie senza cambio di poltrona. Mentre Francesco scrive: a questo punto è determinante ciò che dirà Ghizzoni, se dovesse confermare forse la Boschi farebbe meglio dimettersi, altrimenti l'immagine di De Bortoli non ne uscirà benissimo. Insomma, ognuno comunque si prenderà le proprie responsabilità da una parte e dall'altra, speriamo di sapere presto come sono i fatti. Intanto ecco le notizie più importanti. Appunto, Banca Etruria. De Bortoli nel suo libro scrive: Boschi chiese a Unicredit di comprare la banca, lei smentisce, annuncia ricorso alle vie legali, il Movimento 5 Stelle ne chiede le dimissioni. Roma e i rifiuti e scontro tra Renzi e Grillo, domenica puliamo noi, dice Renzi, il Movimento 5 Stelle replica pensi a Mafia Capitale. L'incendio di Pomezia, ne parleremo tra pochissimo, e poi Barack Obama a Milano, stand innovation per l'ex presidente americano che lancia questo messaggio: bisogna agire sui cambiamenti climatici per il diritto al cibo. Francia, Macron lavora la squadra mentre scatta la fuga di diversi esponenti politici dal Partito Socialista, e Marine Le Pen, nipote di Marine Le Pen, si ritira dalla politica. Corea del Sud, Moon è il nuovo presidente, ora Seoul spera nel dialogo con la Corea del Nord. E per il calcio, Champions League con Juventus-Monaco 2-0 per il momento per la Juventus. Quattro giorni dall'incendio divampato venerdì a Pomezia, a sud di Roma, nell'azienda EcoX, che tratta materiali di recupero, producendo un'enorme e minacciosa nube nera a sud di Roma, ieri la Procura di Velletri ha disposto, vi ricordate, ne avevamo parlato, il sequestro dell'impianto e ha incaricato l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, di verificare il grado di diossina eventualmente sprigionatosi nell'aria. Allora parliamone direttamente con il direttore generale di ARPA Lazio, che è Marco Lupo. Buonasera, Lupo. Buonasera, buonasera. Quindi si parlava di rischio diossina e rischio amianto. Che cosa si può dire a questo punto, dottor Lupo? Ma guardi, noi siamo intervenuti immediatamente nelle prime ore dell'incendio e abbiamo installato dei campionatori proprio per nelle immediate vicinanze dell'incendio, proprio per misurare i livelli di diossina e IPA, che sono insomma gli inquinanti che in questi casi si sprigionano nell'aria. E abbiamo estratto i filtri dai campionatori e attualmente sono in laboratorio. Contiamo nella giornata di giovedì, insomma entro la sera di giovedì, di poter dare i risultati relativamente a questi inquinanti. Purtroppo sono delle analisi che hanno dei tempi tecnici incomprimibili, sono un po' diciamo complicate da, da elaborare, e comunque assolutamente stiamo sul insomma stiamo fornendo il massimo supporto per la, l'individuazione di questi eventuali inquinanti. Per quanto riguarda l'amianto, è notizia, insomma, mi pare di oggi ufficiale che nella struttura l'ASL ha rilevato la presenza di, diciamo, di amianto, e so che sono in corso, diciamo, che è in corso la verifica per determinare se e in che quantità queste fibre si siano eventualmente liberate nell'aria. Che sappiamo che è pericolosissimo l'amianto, perché anche a distanza di decenni, no, può causare tumori. Speriamo di no. Comunque, dal Campidoglio è arrivata questa circolare alla ristorazione della zona di Pomezia, con divieto immediato di approvvigionamento delle derrate alimentari provenienti da un raggio di 50 km dal luogo dell'evento fino a nuova disposizione. Quindi queste sono, insomma, forme delle precauzioni. Lei, dottor Lupo, cosa consiglierebbe a chi... Diciamo che queste sono materie di competenza delle autorità sanitarie, quindi certo, in particolare dell'ASL. Io voglio, sono sicuro e sono, insomma, spero che questo provvedimento, diciamo che è un provvedimento a titolo emanato a titolo precauzionale, sia stato preso in condivisione con le autorità sanitarie, perché è chiaro che diciamo questi provvedimenti vanno assolutamente condivisi con gli enti che si occupano di salute dei cittadini e non vanno assunti in maniera diciamo come dire unilaterale. Quindi sono sicuro che sia un provvedimento che è stato emanato diciamo condividendolo con chi si occupa di tutela dei cittadini. Allora io, dottor Lupo, le chiedo se posso contare su di lei quindi per giovedì, nella puntata di giovedì, sapere, insomma, se ci sono dei risultati definitivi. Sì, spero di poter dare questi risultati. Teniamo conto che noi chiaramente li forniremo in prima istanza, diciamo, alla competente procura della Repubblica, e quindi, insomma, nella giornata di giovedì contiamo di poterli fornire, ecco, magari entro la giornata e anche in serata dovremo riuscire a fornirli alla procura competente. Grazie dottor Marco Lupo, grazie e buon lavoro intanto. Ricordo, buonasera, direttore generale di ARPA Lazio. E poi, prima di lasciarci brevemente per questo aggiornamento per chi sta viaggiando, ringrazio per chi scrive dei bei messaggi, mettete almeno un nome anche d'arte, ringrazio anche Beatrice. E poi qualcuno dice: avevamo i nostri Macron, li hanno bruciati tutti, c'è questo entusiasmo quindi per Macron. E poi Mauro da Rimini che dice: ciao Roberto, 2 anni fa ho perso la mamma casalinga per tumore dell'amianto, l'incendio è un fatto molto grave. Sì, molto grave, ma speriamo, insomma, che non siano così funesti poi i risultati che arriveranno, si spera, entro giovedì. Viabilità e poi un altro tema. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E riprendiamo, Roberta Giordano sempre con voi in questa colonna sonora di notizie della sera, come sempre a effetto notte. Vedo che Macron fa dichiarazioni sul profilo Twitter in occasione delle celebrazioni per il 9 maggio, dice: tempo di rifondare l'Europa, di andare più lontano, voglio che l'Europa sia degna delle promesse di ieri per realizzare le promesse di domani. Almeno, diciamo, gli slogan non è male neanche Macron, poi vedremo, speriamo, nella concretezza. Intanto direi di passare tra pochissimo a un altro tema. Abbiamo appena parlato dell'incendio di Pomezia e dei rischi che potrebbero esserci, ma sentiremo nelle analisi i risultati finali possibilmente giovedì. Adesso vi ricordo che gli altri titoli sono appunto la ministra Boschi e la richiesta a Unicredit, lei smentisce secondo queste indiscrezioni dall'ultimo libro di De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera. E poi con Unicredit, anche che al momento ha smentito che ci fossero pressioni da parte di Boschi. E poi invece pressioni su Trump per il clima, Obama che chiede di rispettare l'accordo di Parigi, di difendere l'accordo. E intanto Trump pensa a vietare i tablet e i PC anche sugli aerei provenienti dall'Unione Europea. Effetto Macron sui partiti, comincia la fuga dal Partito Socialista verso En Marche. Intanto la nipote di Marine Le Pen, Marion, ha deciso di lasciare la politica. Roma e rifiuti e scontro tra Renzi e Grillo. Domenica puliamo noi, dice Grillo. Movimento 5 Stelle replica: pensi a Mafia Capitale. Intanto per la Champions, Juventus Monaco, sempre 2-0 per la Juventus. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, is that how you say it? I want to say thank you to all of you, and in particular I want to thank your mayor. Buonasera Laura Bettini. Ciao Laura. Sera, buonasera. Forse parliamo meglio noi inglese di quanto lui non parli l'italiano. Ma forse, io non lo so, per me stessa, tu sicuramente. Cara Laura, volevo, nel senso tu parli sicuramente meglio inglese di come lui parla italiano, però Laura, dicevo, tu lo hai incontrato Obama, sei stata lì, non hai pagato gli 850 euro che hanno pagato quelli che assistevano alla sua conferenza, no? Perché c'era... No, tra l'altro ho scoperto che alcuni giornalisti li hanno pagati, questo è un argomento che sarebbe interessante approfondire, com'è possibile. Comunque, vabbè, ha detto questo che va indagato perché sono... Sì, qualcuno dice che l'avrà ricaricato sull'azienda, ma insomma c'erano anche persone comuni disponibili, che sono disposte a pagare 850 euro, qualcuno addirittura ha detto ho raspato dei miei risparmi pur di sentire dal vivo Obama. E va bene, questo significa che il presidente ex presidente americano che ha partecipato come ospite d'onore a questo evento internazionale Seeds and Chips sull'alimentazione e innovazione è stato accolto come una rock star, dicevamo anche ieri a Milano, no Laura? Sì, selfie, 850 euro per sentirlo dal vivo, ovazioni, eccetera, eccetera. Sì, tra l'altro lui stesso, così, scherzando su questa cosa dei selfie, ha detto adesso quando vado in giro la mia preoccupazione, se un tempo era la sicurezza, questo, adesso è che ogni passo mi fermano per fare i selfie. Sinceramente capisco che sia pesante anche essere Obama e essere fermato ogni passo. Qualcuno ha dato dei provinciali ai milanesi, provincialotti, perché avere tutto questo entusiasmo per un ex presidente, insomma comunque Obama al di là difetti, pregi, sicuramente ha conquistato un certo carisma, no? Sicuramente, no, poi provincialotti e milanesi, però io ero lì presente, giornalisti americani esortavano giornalisti italiani ad alzarsi in piedi quando entrava Obama, quindi Sa poi gli americani, direi che anche loro hanno un comportamento ancora un po'... No, succube di questa figura che pure non è più il loro presidente, ormai è un comune cittadino, ecco. Evidentemente però ha lasciato il segno, al di là che abbia fatto bene o abbia fatto male. Laura, invece andando sui temi quelli di un certo peso, soprattutto ha parlato di cambiamenti climatici, della lotta alla fame nel mondo. Sì, lui ha insistito tantissimo, vi sono fondamentalmente due i pilastri di questo nuovo Obama post, no, post presidenza, l'alimentazione sana è sufficiente per tutti, la quale alimentazione sana e sufficiente dipende ed è strettamente correlata dal fermare i cambiamenti climatici. Quindi lui sta battendo, no, su questi due chiodi, ora l'uno, ora l'altro, e lo stesso ha fatto oggi. Ha parlato poco di energie, ma l'ha fatto per pungolare Trump, perché il tema di oggi era l'alimentazione, quindi ha parlato di cambiamenti climatici in relazione all'alimentazione. Ma ovviamente non si è fatto scappare l'occasione di tirare una stoccatina a Trump dicendo sì, la nuova amministrazione americana ha cambiato rotta rispetto alla mia, però ormai l'impresa privata, quella che produce energia, si è instradata sulle energie rinnovabili, sulle energie verdi, e quindi non torneranno indietro nonostante, no, i proclami di Trump. Ed è chiaro che se... Chi produce energia la produce in un modo o in un altro, ormai ha intrapreso una via. Sono cose che si prendono, quando si prende una decisione in quel campo si prende per 10 anni, non è che si cambia ogni anno, certo, a seconda dell'inquilino della Casa Bianca. Quanto all'alimentazione, l'ha messa correttissimamente in relazione a problemi di migrazione, problemi di salute, problemi di bilanci dello Stato. Ci sono problemi di mille tipi connessi all'alimentazione. E noi di solito non pensiamo che ci sia anche la questione del cambiamento climatico, invece c'è anche quella, perché siccità, inondazioni, eccetera, eccetera, no? Esatto, Laura, esatto. E poi c'è il cambiamento climatico, scusami, che deriva dalle emissioni, e le emissioni vengono da agricoltura e allevamento come secondo comparto che produce emissioni per quantità. Quindi un gran circolo vizioso. Poi ha detto che sta scrivendo il suo terzo libro e che certamente tra poco tempo sarà in vacanza in Toscana con la moglie Michelle. E insomma, chi lo vuole accogliere con selfie e ovazioni, faccia. Grazie a Laura Bettini, che era lì presente tra 3.500 persone davanti alla quale ha parlato. Ciao Laura. Ciao a tutti. Ci aggiorniamo alle 22.